Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Adesso dobbiamo fare la trasmissione, però dopo ti dico cosa mi ha raccontato il mio tulipano, il mio bulbo, questa mattina. Sono proprio curiosa, sì, perché... Sì, mi ha ricordato una serie di cose. No, perché hanno una memoria fortissima. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominciamo da lì. Non so se dai tulipani, però intorno. Che le piante fossero intelligenti lo sapevamo già. Adesso una ricerca italiana dimostra che sono in grado di apprendere e memorizzare informazioni. Le auto che si guidano da sole sono più sicure. Vero o falso? Il bimbo è vivace e socievole, somiglia tutto a papà. Ma il carattere e i comportamenti hanno origine genetica? Sono ereditari? Ciao cara, farò tardi, faccio un salto ad Auschwitz. Trovate le lettere ai familiari del capo delle SS, Heinrich Himmler. Non iniziamo dai tulipani, ma bensì dalla mimosa. Dalla mimosa. Che ha una memoria micidiale. E il tulipano no? Il tulipano, adesso chiediamo all'esperto, non saprei. A me sembrerebbe uno. No, allora, torniamo un attimo seri, perché sul fatto che le piante fossero intelligenti ne avevamo già discusso e non c'è dubbio, ormai abbiamo tutte le informazioni per dire che lo sono. Però ovviamente la ricerca va avanti, la ricerca italiana in particolare, e adesso abbiamo acquisito una nuova informazione. Le piante, in particolare questa mimosa, sarebbe in grado di imparare e memorizzare alcune informazioni. Stupefacente. Andiamo ovviamente da uno dei massimi esperti, già stato nostro ospite, il professor Stefano Mancuso. Buonasera e bentornato. Buonasera. Lei è direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze, è già stato nostro ospite raccontandoci appunto di quanto le piante possano interagire con l'ambiente esterno e siano in qualche modo veramente intelligenti, al pari quasi del regno animale. E adesso lei ha fatto un importante studio sulla mimosa pudica. Forse dobbiamo dire qualcosa su questa specie particolare. La mimosa pudica è una piantina tropicale, un alberello, un cespuglio. Ha questo nome perché è una pianta che quando la si tocca, le foglioline si chiudono istantaneamente. Si ritraggono. Si ritraggono, e per questo gli è stato dato questo nome di pudica. E quella che si chiama è una pianta cosiddetta sensitiva, ce ne sono molto poche, cioè piante che quando in seguito ad alcuni stimoli producono delle reazioni che sono immediatamente visibili. La mimosa è una di queste. Ecco, voi l'avete studiata, avete fatto proprio degli esperimenti molto particolari, di cui adesso le chiediamo di raccontarci, e in effetti è venuto fuori che è in grado di acquisire delle informazioni e di memorizzarle in un certo modo. Sì. Sì, era proprio, noi abbiamo usato la mimosa pudica perché avevamo bisogno di una pianta appunto che avesse una reazione immediata a uno stimolo. Ora, immaginiamo questa piantina, questa ha delle foglioline, se la si tocca immediatamente si chiudono. Che cosa abbiamo pensato? Di vedere se la pianta era in grado di distinguere fra degli stimoli diversi. Faccio un passo indietro, ogni volta che le foglioline si chiudono la pianta spende dell'energia, quindi non lo fa a cuor leggero, ci pensa prima di chiuderle. Questa reazione di chiusura delle foglie è una reazione che dovrebbe servire a spaventare degli eventuali insetti che si posassero sulle foglie per mangiare. Quindi proprio una reazione di difesa che costa energia in qualche modo. Sì, è una reazione di difesa che richiede dell'energia. Allora, abbiamo pensato di insegnare, di vedere se era in grado di apprendere un particolare stimolo, non era pericoloso. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei vasetti con queste piantine dentro e le abbiamo cominciate a far cadere da delle distanze precise di 15 centimetri. Ma pensa un po', cioè da 15 centimetri dalla pianta. Come se fosse, sì, diciamo, su un tavolino, loro sì, venivano buttate giù. Okay. Fa saltare di 15 centimetri. Ecco, all'inizio la pianta ovviamente si spaventa e chiude le foglie. Certo, vorrei vedere, è insomma. Umano, e che è abbastanza ovvio. Dopo un po', però, e questo era molto meno ovvio, le piante iniziano a capire che quello stimolo non è pericoloso, per cui non si chiudono più, mentre invece se uno le tocca continuano a chiudersi. Quindi vuol dire che tutto l'armamentario che porta alla chiusura delle foglie funziona perfettamente, è proprio la pianta che ha deciso di non chiudersi più perché ha capito che quello stimolo non è pericoloso. Cioè il fatto di cadere comunque non rappresentava un pericolo per la sopravvivenza e quindi decidevano in qualche modo di risparmiare l'energia e quindi di non chiudersi più. Di non chiudersi, anzi due gruppi di piante allevati in diverse condizioni di luce, cioè alcune con luce più forte, alcune con luce più debole, quindi potremmo banalizzare dicendo un gruppo era energeticamente più ricco e uno più povero, ci siamo accorti che i poveri, le piante povere con poca luce, che avevano quindi meno energia da buttare in maniera inutile, imparavano prima, cioè riuscivano a identificare lo stimolo non pericoloso più rapidamente rispetto alle altre. Perché avevano ovviamente esigenza di risparmiare di più. Avevano un'esigenza certamente di consumare meno energia possibile. E questa è stata la prima parte della ricerca che ci ha dimostrato appunto come le piante fossero in grado di distinguere fra stimoli diversi e rispondere a questi stimoli in maniera differente. Dopodiché ci siamo chiesti, ma insomma, se le piante però apprendono questi stimoli, devono per forza avere una memoria. Non è possibile apprendere senza memoria. E quindi ci siamo chiesti quanto potesse durare questa memoria e abbiamo visto che dura in alcuni casi anche oltre i 2 mesi, ma mediamente oltre 40 giorni. Cioè, se queste piantine che erano state sottoposte a questi stimoli, poi le si lasciava completamente indisturbate per 40 giorni. Cioè non si lanciavano giù dal tavolino, ma si lasciavano ferme. Ferme, dopo 40 giorni le si sottoponeva di nuovo allo stesso stimolo, quindi le si lanciava, le si faceva cadere da 15 centimetri, loro non rispondevano. Cioè continuavano ad avere la memoria che quello stimolo non era pericoloso. Per un paio di mesi, diciamo. Poi dopo si scordavano. Tenga presente che non è così poco. No, ma per farle degli esempi, la maggior parte degli animali, degli insetti per esempio, mantengono memoria per poco più di un giorno. Senta però Manculo, viene spontanea una domanda, cioè volare giù di 15 centimetri comunque non è una cosa gradevole, però sembrerebbe allora che questa cosa a loro non importi, insomma, solo che hanno come reazione solo quella di chiudere le foglie. Sì. Poi se vi mandano al diavolo, voi quello non lo potete sentire. No, quello non lo possiamo sapere per ora. Immagino che non gli faccia piacere. Bisognerebbe riuscire, probabilmente ci state già pensando, a capire se ci sono anche altre reazioni. Fattori. Dunque, ora stiamo facendo, noi stiamo lavorando in diverse direzioni. Una è proprio quella di vedere i diversi fattori o le diverse reazioni di questa pianta. L'altra cosa che probabilmente è ancora più interessante, perlomeno per noi, è capire se tutte le piante hanno una memoria del genere. Il problema con le piante capire la reazione. Il mio tulipano, come si fa? Certo. Come il suo tulipano, è trovare il segnale, insomma. Il segnale immediato, ma si può fare, cioè magari non è visibile ad occhio nudo, ma insomma con alcuni strumenti, per esempio alcuni segnali chimici, li si possono tranquillamente misurare. Dov'è che immagazzinano queste informazioni? Cioè, hanno un cervello? Dove potrebbe essere, sì. Ecco, questa è un'altra ottima domanda che sta aprendo numerosissime discussioni. Innanzitutto perché ovviamente le piante non hanno un cervello e quindi immagazzinano queste informazioni all'interno di cellule normali. Ora, il problema vero è che non è che ci sia per forza bisogno di un cervello per memorizzare. Un cervello è costituito da delle cellule che nel nostro caso, negli animali, sono particolari perché sono dei neuroni, però la specificità di questi neuroni è che sono delle cellule, come si suol dire, eccitabili, cioè che producono dei potenziali elettrici. Ecco, la pianta è tutta costituita da cellule che producono potenziali elettrici, come un grande cervello diffuso. È una mente diffusa. Più di una volta, del resto, lei ci ha detto che ci sembrano immobili, ma in realtà sono tutt'altro. Esseri viventi che si spostano e come. Si muovono tantissimo, certo. Infatti invito gli ascoltatori ad andare ad esempio su YouTube, mettere il suo nome, Stefano Mancuso, ci sono dei bellissimi esperimenti. Grazie, sì. Professore, davvero. Grazie, buona ricerca. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. te piacerebbe l'auto che guida da sola? E come no, potrei fare un sacco di cose mentre lei guida. Però non stiamo qui ad affrontare questo tema dicendo che adesso guidare le auto deve scomparire, perché insomma c'è una certa piacevolezza, no? Cioè, sì, però, un po' più no. Forse maschile, posso forse dirlo, questa è una differenza di genere, va però... Va bene. Nostri ospiti per parlare dell'auto che si guida da sola sono Enrico Fagone, buonasera Enrico. Buonasera. Ci diamo del tu perché sei un collega, anche se applicato a un settore, beh, insomma, dove c'è dentro molta scienza e tecnologia, che è questo appunto dell'automotive, delle cose che si muovono su quattro ruote, due ruote, anche una ruota sola. Architetto di formazione e anche esperto di design. L'altro nostro ospite è Stefan Schwarz. Buonasera, Schwarz. Buonasera. Lei è direttore design della Zagato. Beh, insomma, credo che veramente tanti sappiano che cosa è, cosa va insieme a questo nome, ma la Zagato da tanto tempo è connessa a progetti di automobili, beh, insomma, per tutte le più grandi marche mondiali, no, Schwarz, direi, nessuna esclusa. Abbiamo avuto la fortuna in 95 anni di storia di lavorare per sì, tutti per i tutti. Per tutti, mondo. Per tutti. Ed è un grande marchio italiano che certo ha fatto la storia dell'automobile. Partiamo perché, allora, dividiamo in due. Primo, cosa sono queste auto che si guidano da sole? Credo che a largo pubblico sia arrivato, soprattutto l'esperimento di Google con la Toyota, se non, correggetemi se sbaglio, in California, dove un'auto ha guidato da sola per circa un mese. Però ormai di esperimenti ce ne sono parecchi. Anche voi di Zagato, no? Ne avete in campo uno, se non sbaglio. Esattamente, abbiamo addirittura 40 anni di alle spalle di storia. Ah, di ricerca su questo? Sui mezzi, sulla mobilità futura, è iniziato negli anni 70 e recentemente nel 2008 Zagato ha presentato un People Mover per la città di Masdar nell'Emirato di Abu Dhabi. Questo veicolo esiste, si guida da solo. È una specie di taxi a guida automatica programmato per fermarsi in corrispondenza di fermate predeterminate ed è controllato da un computer e si muove lungo un percorso stradale definito da una banda magnetica. Questa è una realtà e noi oggi continuiamo a studiare un'evoluzione di questo concetto che spero verrà presentato in un futuro prossimo. Magari facciamo un passo indietro, magari Fagone, Enrico, se ci racconti un pochino invece per tutti, ecco, anche per quelli che magari non lo sanno, non hanno seguito la vicenda della Google Car, cosa sono queste auto che si guidano da sole? Sono molto diverse dalle auto a guida facilitata, cioè queste vanno proprio da sole. Sì, ma direi che tutti i più grandi costruttori in questo momento per gruppi, costituendo anche delle alleanze tra loro stessi, stanno sperimentando veicoli in grado di muoversi autonomamente. Cosa significa? Significa dotare queste vetture che somigliano in tutto e per tutto alle auto che abbiamo nelle nostre strade, ma hanno degli automatismi, sono come dire equipaggiate di meccanismi che definirei di intelligenza artificiale, perché di questo si tratta, cioè sono in grado di decodificare tutta una serie di informazioni e di conseguenza garantire il loro spostamento senza incorrere nel rischio di collisioni piuttosto che seguire un percorso rispettando tutte le problematiche, le variabili che la circolazione impone. Pensiamo al traffico, pensiamo alla velocità, pensiamo alla stessa struttura delle strade all'interno delle quali si muovono. Sono auto immerse nel traffico, non hanno nessun diciamo favore. Corsie preferenziali. Sono immerse nel traffico. Ecco, però io chiedo a tutte e due, allora, sicure o non sicure? Quando magari sono sicure, se lo sono più in certi casi no, che in altri, oppure sono decisamente sicure? Ma credo occorrerà ancora aspettare, nel senso che queste ricerche stanno ovviamente verificando, testando l'affidabilità di questi sistemi, perché uno dei temi più critici e forse anche risolutivi che queste vetture potranno effettivamente affrontare è quello della sicurezza, ovvero l'idea di un mezzo in grado di muoversi autonomamente, di limitare, addirittura i costruttori parlano di azzerare il numero di incidenti, quindi il rischio di collisione con altri veicoli ma anche con i pedoni. Questo è il traguardo che tutti si pongono. A questo proposito vorrei ricordare che sul tema della sicurezza, anche per dare dei dati concreti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso anno, al termine dello scorso anno, ha presentato il proprio rapporto annuale sulla sicurezza stradale e devo dire i dati sono sempre allarmanti, cioè nel mondo ogni anno ci sono 1.240.000 vittime della strada. Sì, sì, i numeri sono impressionanti. È un numero impressionante e questo ci fa riflettere. Un altro dato che emerge da questo studio, vorrei ricordarlo brevemente, è che solo 28 paesi, che corrispondono al 7% della popolazione terrestre, si è dotato di una regolamentazione per la sicurezza stradale. Questo ci fa ben pensare sull'entità del problema e certo il ruolo che queste vetture potranno avere se effettivamente, come tutti auspichiamo, riusciranno a venire incontro a questa necessità primaria di sicurezza. Queste vetture si muovono attraverso una sensoristica molto sofisticata. In questo modo, diciamo, sarebbero sicure perché si elimina tutta quella che è l'errore umano, in qualche modo, gli errori di distrazione, l'imprudenza anche. Da quel punto di vista loro sono molto più rigorose. Assolutamente, perché sono gestite da sistemi computerizzati estremamente complessi. E forse il risvolto, mi sembra interessante sottolinearlo, che forse può essere un tema di riflessione anche per gli ascoltatori, è quello che muterà la nostra idea di automobile. Cioè noi da tanti anni, da quando l'automobile esiste, prima ancora da quando esistevano i carri, no? Penso alle redini dei cavalli, poi diventate il volante, no? Adesso ho fatto un rapido excursus di qualche migliaio di anni. Ma sostanzialmente dal punto di vista antropologico il rapporto che noi abbiamo stabilito con l'automobile è sempre quello di essere noi, alla guida, no? E qui invece si ribalta completamente questa relazione. Questo sposta in qualche modo e spiazza, devo dire, inaspettatamente, motivo per cui rimaniamo sorpresi quando vediamo Google, l'auto che guida da sola, no? Rimaniamo folgorati da questa notizia. È proprio che cosa faremo a bordo dell'automobile. Cioè, certo. Nel momento in cui non dovremo più condurre noi il mezzo, ma sarà lui a guidarci. Beh, qualcosa da fare lo troviamo. Ecco, e qui credo l'altro aspetto che vorrei sottoporre a una comune riflessione è Stefan proprio Schwarz. Il ruolo del design. Cioè esatto. I progettisti che hanno compito di mediare questa complessità tecnologica con il rapporto. Però vorrei sentire anche da Schwarz che cosa pensa lui rispetto alla sicurezza. Certo, ma bisogna distinguere due tipologie di veicoli quando si parla dell'auto che si guida da sola. Una è un veicolo che viaggia nei limiti di un percorso securizzato, prestabilito, distaccato dal traffico urbano. Questo è Masdar che avevamo concepito nel 2008. L'altra tipologia è l'immersione totale di questo futuro veicolo, non so neanche se dovrebbe chiamarsi un'automobile, nel nostro contesto urbano. E questo crea oggi una sfida molto importante che è per i tecnici, per tutti noi, tradurre l'etica di guida che applicare l'uomo per motivi di cultura, di morale, ad affrontare delle situazioni estremamente critiche e reagire in tempo reale. Questo è ancora ad oggi un problema non risolto, come integrare questa intelligenza artificiale di cui parlava Enrico in maniera totalmente sicura. Qualche nuvola, qualche ombra resta al momento. Assolutamente, Google sta lavorando molto su questo argomento, anche Ford che collabora con Microsoft, che ha aperto dei reparti specifici per questi studi, coinvolgendo degli investimenti maggiori, tutti quanti stanno valutando quale sarà l'introduzione di questa intelligenza artificiale. È vero che l'uomo ha delle deficienze, ma anche ha tante qualità oggi di poter giudicare in tempo reale delle situazioni molto critiche o dare delle priorità. Il computer non lo sa ancora fare in questo momento. Quindi c'è ancora qualcosa. Ecco, però appunto dicevamo prima, io e Chiara ci guardavamo, Certo, noi che in fondo abbiamo guidato anche da un bel po' l'idea di avere la macchina sulla quale c'è una bella maca, il ventilatore, sì, il bar. Un divano, un minibar, insomma. Ecco, però, certo, non sarebbe più una macchina, vabbè, chiamiamola in un altro modo, ma sarebbe comodissima. Però, Chiara, qui lo diciamo subito ai nostri. Però tu sei su un mezzo che comunque si deve spostare. E quindi può frenare, certo. Ce l'ha, spostarsi. E non restano comunque necessarie delle posizioni all'interno di questo habitat, Schwarz, che devono essere, per esempio, insomma, eliminiamo le cinture di sicurezza? No. Ma dipende dalla soluzione proposta, alla fine, se l'ingegneria è in grado di azzerare un impatto potenziale, si apre un mondo straordinario dove questa carrozza del terzo millennio potrebbe diventare un'estensione della nostra casa, del nostro ufficio, voi la vedete così? Quello che vogliamo, possiamo importare l'idea del tempo libero, del lavoro in uno spazio chiuso, mentre oggi siamo costretti a rispettare un'attività ben precisa, che è di seguire la strada e guidare noi in modo sicuro. Quindi potremmo anche lavorare, insomma, potremmo proprio... Norme per tutti noi al quotidiano, se ci pensiamo, siamo bloccati nel traffico per delle ore dove non possiamo sfruttare il momento per fare d'altro. Certo, e quindi state pensando proprio a un design di questo tipo interno. Assolutamente, si elimina il posto guida tradizionale come lo conosciamo e lo viviamo noi e potremo concepire un salotto, un tavolo una sala di conferenza, uno spazio di gioco, di divertimento. Però lei sta pensando anche a delle auto enormi. Interattivo e fare tante cose. Pensate a delle auto grandi, perché ci sta facendo una descrizione di quest'habitat con spazi notevoli. Ma neanche, perché se la tecnica e la tecnologia soprattutto, che tende sempre a minimizzare i contenuti meccanici, i componenti materiali, ci consentono di ridistribuire lo spazio, di gestirlo in maniera diversa, anche in un confine, in uno spazio limitato, si possono fare tante ottimizzare cose. L'uso di questo spazio, e questo è qualcosa di molto entusiasmante. Lo scenario che si apre nei prossimi anni è straordinario. Enrico Fagone e Stefan Schwarz, grazie, e faremo altre incursioni nei rapporti fra scienza, tecnologia e auto. Grazie. Buona serata. Grazie, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo contenti di questa domanda che ci è arrivata, perché ci consente di prendere un'antica questione fondamentale e importante nella cultura scientifica diffusa, e però poi ci consente anche di entrare in alcune specifiche che negli ultimi 10-15 anni sono arrivati sul tema. Una domanda semplice con una risposta altrettanto semplice, sì e no, invece è piuttosto complicata. Perché la risposta è stata semplice per tanto tempo, netta, e poi invece si è complicata. Si è aperta una disciplina praticamente nuova. Ma diamo la parola ad Alessandro. Mi chiedo, ma è possibile rintracciare aspetti del nostro carattere nel nostro patrimonio genetico? Faccio questa considerazione perché molto spesso mi sento dire: ah, tuo figlio è proprio simpatico come te. Voglio dire, questo ha un senso, questa domanda? Domanda quindi. Domanda semplice, famosa, che forse tutti si sono posti in alcune situazioni familiari. E allora noi andiamo dall'esperto, andiamo all'Istituto Europeo di Oncologia, dal dottor Giuseppe Testa. Benvenuto e buonasera. Buonasera a tutti, salve. Lei è direttore del laboratorio di epigenetica delle cellule staminali per l'Istituto Europeo di Oncologia. Insomma, che cosa possiamo rispondere al nostro Alessandro? Possiamo rispondere, diciamo, una risposta breve, e di dire che sì, certamente i geni hanno ovviamente un impatto, diciamo, sul nostro carattere, sulla nostra personalità, ma non è, diciamo, un impatto lineare e, diciamo, semplicistico nella maniera di dire il gene per l'essere, diciamo, simpatico, simpatico, estroverso, il gene per l'essere, diciamo, introverso o estroverso. Direi che la risposta semplice è di dire che sì, i geni ovviamente hanno un impatto forte, ma hanno un impatto almeno altrettanto forte quelli che noi chiamiamo ormai gli epigeni, cioè il modo in cui, diciamo, la funzione, l'attività, lo stato dei nostri geni può essere regolato dall'ambiente, perché più andiamo avanti più capiamo che in realtà non sono solo i geni quello che prendiamo dai nostri genitori, quindi dai nostri nonni eccetera, ma sono anche, diciamo, gli epigeni, cioè il modo in cui un gene funziona può essere, diciamo, trasmesso alle generazioni successive, anche se non vi è, diciamo, la trasmissione di una mutazione genetica, cioè al di là, diciamo, dell'alfabeto del DNA, se vogliamo usare questa metafora, c'è un altro livello che è come questo alfabeto viene usato, che anche quello può essere ereditato. Tanta parte però fanno, come dire, le condizioni in cui noi viviamo, l'ambiente esterno, l'educazione, il come noi siamo in qualche modo influenzati dall'ambiente esterno, vale a dire, usando la metafora che lei diceva dell'alfabeto, il fatto di come si compongono poi le parole con queste lettere dell'alfabeto dipendono anche e soprattutto dall'ambiente esterno. Assolutamente, e voglio dire, è chiaramente, diciamo, la sfida, diciamo, delle scienze della mente di oggi è esattamente di capire a livello molecolare, quindi, diciamo, sempre più di spiegare proprio questa giuntura, questo nesso tra il livello genomico e il livello ambientale, e vedere, diciamo, come interagiscono in maniera compiuta. Uno studio, per esempio, di qualche anno fa destò molto scalpore, perché, diciamo, era uno dei primi studi che che guardava a dei comportamenti molto complessi, e cioè in quel caso guardava alla probabilità che si commettesse il suicidio da adulti se da piccoli si era stati oggetto di abusi sessuali. Ed era uno studio che scoprì che cosa? Che c'era una associazione tra l'avere una particolare variazione genetica in un determinato gene che, diciamo, predisponeva a questo comportamento suicidario da adulti, ma solo se oltre a questa, diciamo, variazione genetica si associava appunto un evento fortemente traumatico come l'abuso sessuale da bambini. Mi scusi Testa, perché vorrei essere sicuro che arrivi bene la sua risposta agli ascoltatori. Sì. Quando lei dice la risposta è sì al vostro ascoltatore, forse qui può nascere un equivoco, nel senso che lui chiede se il nonno estroverso si riflette sul nipote estroverso. A questo noi diciamo no. Beh, voglio dire, se la domanda viene posta in termini, diciamo, così netti, così, diciamo, bianchi e neri, direi che risponderemmo no, semplicemente, ma in realtà più che no dovremmo dire che è una domanda posta male. Diciamo. L'immaginario diffuso è questo, no? Esatto, no, e questo immaginario questo è sballato. Lo possiamo tranquillamente smentire, voglio dire, nel libro, diciamo, che ho scritto insieme alla collega Egan Ovotto, che abbiamo chiamato Geni a Nudo, proprio per parlare, diciamo, di come la nudità del nostro genoma e il fatto che noi adesso le cominciamo a conoscere, queste variazioni genetiche, non potesse naturalmente tradursi in un rapporto uno a uno in conclusioni semplicistiche come queste. Facevamo per esempio l'esempio dello sport, in cui sempre di più c'è, diciamo, nell'immaginario questa idea che avere una variazione genetica ti predispone a fare l'atleta di corsa lunga oppure l'atleta di corsa breve. Detto questo, è però ovvio, e peraltro è anche prima della genetica un pochettino senso comune, che evidentemente non nasciamo tutti uguali, anche per esempio nelle predisposizioni alle attività sportive che possiamo fare. Certo. E quindi, diciamo, se il nonno era estroverso, non direi che ci aspettiamo il nipote estroverso, ma non ci meravigliamo però se alcuni aspetti dell'architettura cerebrale di questo nipote sono stati trasmessi in parte per, diciamo, per vie genetiche e in parte per quelle vie epigenetiche che poi hanno a che fare anche con l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, quindi l'altra cosa che le aggiunge, che aggiunge l'epigenetica, è che però dobbiamo guardare anche ai geni come, e al patrimonio genetico come a qualcosa che esprime un potenziale. Bravissimo. Pronto a reagire a degli stimoli esterni. Che credo riassuma bene questa cosa, se posso interromperla, è, diciamo, che noi pensiamo sempre di più ai geni, quindi al genoma, insomma all'insieme dei nostri geni, come una risorsa di sviluppo. E pensata come risorsa, secondo me è una cosa intelligente e giusta, perché chiarisce che appunto sono una risorsa, che ovviamente predispone, perché una risorsa di un tipo non è una risorsa di un altro tipo, ma predispone solo nella interazione con una serie di altri fattori. E quindi in questo senso effettivamente la genetica è aperta alla quotidianità, alla routine di un individuo, ecco, in questo senso, perché è una differenza non facile, no? No, certo, infatti diciamo l'esempio che facevo, che mi sembrava un esempio diciamo molto eclatante, infatti fu uno studio che destò molto scalpore, era proprio diciamo l'andare ad indagare un comportamento così complesso come il suicidio, il trovare una connessione con un livello genetico e però anche con un chiaro, in quel caso, evento traumatico. Senti Chiara, sì, a proposito del nostro ospite Giuseppe, sì, Testa, c'è un bel titolo su un giornale. Sì, che è... allora il titolo è "Costruisco avatar dalle staminali per capire le malattie del cervello". Lei nei giorni scorsi ha ricevuto un'importante premiazione dal Consiglio Europeo delle Ricerche, ha ricevuto un finanziamento, per voi è importante ovviamente, di 2 milioni di euro per una ricerca molto particolare. Questi avatar di cellule, fatti di cellule staminali, per capire le malattie del cervello. Intanto non complimenti, possiamo non però parlarne. Ce lo spieghi. Con questa tecnologia che adesso vi spiego brevemente, studiamo delle malattie, che sono malattie genetiche, che influenzano il comportamento e sono molto interessanti perché è praticamente l'unico caso in cui abbiamo in un caso la perdita diciamo di una coppia di circa 26 geni, che quindi sono abbastanza pochi se pensiamo che diciamo in genere pensiamo di avere 30.000 di geni. Ecco, i bambini a cui manca una coppia di questi 26 geni, quindi la loro dose diciamo è dimezzata, hanno una malattia che si chiama sindrome di Williams, che è una malattia complessa, che ha una serie diciamo di aspetti, in cui però molto, in maniera molto diciamo unica, questa diciamo disabilità intellettiva è legata invece a una capacità verbale di linguaggio che è sostanzialmente ben conservata, e soprattutto si tratta di bambini che sono molto socievoli, ipersocievoli. I primi medici che scoprirono questa malattia e la definirono, parlavano addirittura di personalità da cocktail party. Quando qualche anno fa si è scoperto con, secondo me, grande diciamo quindi grande interesse, quindi anche proprio fascino per la condizione umana, che invece la duplicazione degli stessi geni, quindi sempre gli stessi 26, ma invece di averne una coppia in meno, una coppia in più rispetto al cosiddetto normale, era invece associata all'autismo, che naturalmente, come sappiamo, ha almeno due degli aspetti che vi ho detto prima, che sono invece opposti. E cioè un grave diciamo disturbo nelle capacità verbali e linguistiche e dal punto di vista della socialità il cosiddetto ritiro autistico. Quindi ci rendiamo conto che è uno dei casi, forse uno dei più eclatanti, in cui andiamo vicinissimi a quello da cui eravamo partiti, cioè la possibilità di legare un numero di geni tutto sommato piccolo a dei comportamenti che direi sono fondativi della condizione umana, come il linguaggio e la socialità. Allora, per affrontare queste malattie in passato si è fatto ricorso a una serie di modelli, molto spesso al topo, che è utile, però naturalmente ci rendiamo conto dei gravi limiti che incontra nel momento in cui affrontiamo domande di questo tipo. Noi, diciamo, con questo progetto, appunto, che ha ricevuto questo importante premio e riconoscimento, usiamo invece un altro, diciamo, un altro approccio che è fondato sulle staminali, che ci dà anche la possibilità, diciamo, magari di introdurre agli ascoltatori interessati alla scienza che le staminali, che la nuova frontiera delle staminali non è solamente quella diciamo di riparare il corpo, ma anche proprio per la prima volta di studiare le malattie nel sistema umano, cioè utilizzarle un pochino come mezzo. Sono delle sonde. Bravissima, delle sonde, mi sembra diciamo una definizione perfetta. E come facciamo? Grazie diciamo alla tecnica diciamo pionieristica messa a punto dal collega giapponese a cui è stato dato il Nobel 2 anni fa, Shinya Yamanaka, noi prendiamo dalla cute, quindi da diciamo da una piccolissima biopsia della cute di questi pazienti, in questo caso di questi bambini, delle cellule che sono appunto della cute, e come diciamo ormai in gergo le riprogrammiamo, cioè le portiamo a uno stadio invece di cellula staminale pluripotente. Perché la chiamiamo pluripotente? Perché è pluri, cioè ha una potenza di sviluppo, cioè è in grado di dare origine a tutte le cellule del nostro corpo. Può differenziarsi tantissimo. Esattamente. Quindi anche a quali? Ai neuroni della corteccia del nostro cervello, che ovviamente sono le cellule implicate nei tipi diciamo di manifestazioni e di sintomi che vi ho detto. E quindi studieremo l'impatto di questi 26 geni in questi due aspetti, come abbiamo detto, simmetricamente opposti, cioè la ipersocialità e la iposocialità, in un sistema che naturalmente è un sistema in vitro e che quindi ovviamente non riproduce per definizione la complessità di un cervello in vivo, ma che proprio perché è in vitro e perché per la prima volta volta ci dà accesso ai neuroni umani, che per ovvi motivi non potevamo prendere evidentemente dalle persone, ci dà per la prima volta la capacità di studiare i meccanismi molecolari di che cosa non va in questi neuroni. Capiamo che è anche molto complicato descrivere una ricerca di questo tipo, però guardi, le facciamo i complimenti, insomma aspettiamo assolutamente dei risultati promettenti. Certamente, lo speriamo noi tutti e speriamo quindi di risentirci per parlarvi dei primi eccitanti risultati. Esatto, benissimo. È così. Grazie, buon lavoro. Direttore. Grazie, arrivederci. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nei prossimi giorni sarò a Lublino, Zamość, Leopoli e Auschwitz e poi nei nuovi uffici di comando. Saluti e baci, tuo Papi. Tanti saluti alla bambolina di Papino. Sto andando ad Auschwitz, tuo Heini. Ecco, sfumiamo. Heini sta per Heinrich, un diminutivo come Ricky per Riccardo. E questo Heini è Heinrich Himmler, il capo delle SS naziste. Un numero spropositato, qualche centinaio, se non ricordo male, 700 lettere, cartoline, bigliettini, sono stati ritrovati di recente, nelle scorse settimane. Erano in un caveau di una banca a Tel Aviv e adesso si sta cercando di capire come sono arrivate lì. Heinrich Himmler quindi scrive alla sua famiglia. Gli stralci che avete sentito sono tratti da cartoline che lui ha spedito per esempio alla sua bambina quando gli dice appunto tanti saluti da Papino, e poi si firma anche tuo Papi, ma sta scrivendo alla moglie, che a un certo momento avvisa dicendo, come se andasse a lavorare, sto andando ad Auschwitz, tuo Heini. Tutto, come dire, in una agghiacciante normalità. Di questa normalità tremenda ne parliamo con Vittorio Lingiardi. Buonasera Lingiardi. Buonasera. Psichiatra, docente di valutazione clinica e diagnosi alla Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma Sapienza. Abbiamo preso queste lettere di Himmler che sono state davvero una sorpresa storica, nessuno immaginava che potessimo avere questo patrimonio documentale. Le abbiamo prese perché, certo, siamo nelle settimane in cui si ricorda giustamente ogni anno la Shoah, il dramma dei campi di concentramento, però abbiamo pensato, chiacchierando con lei, di allargare un attimo il discorso, perché si discute spesso del fatto che c'è un pericolo nel ricordare puntualmente sempre le stesse cose, sebbene siano di grande importanza, però proviamo un attimo ad allargare la vision di, rispetto a questo tipo di comportamenti, perché in modo del tutto analogo ci sembrano agghiaccianti anche quelle letterine che abbiamo recuperato dopo l'arresto di Totò Riina, quando per esempio lui scrive alla nipote che sta per fare la maturità e dice: ho pregato tanto Gesù e la Madonna perché ti aiuti in questo momento così importante. Oppure anche altre cose agghiaccianti che ci sono arrivate sempre in questi giorni, testimonianze che riguardano quello che accadde in Argentina sotto la dittatura dei generali. Allora Lingiardi, con lei vorremmo capire in che misura bisogna andare oltre, chiaro, quella che è la dimensione storica del nazismo, e provare a capire come può essere che avvenga questa dissociazione totale. Senz'altro condivido la precisazione che lei ha fatto, separare il resoconto storico e l'indagine psicologica. Dal punto di vista storico, l'Olocausto, il nazismo e i suoi orrori sono un fenomeno unico. Certo. Non unici invece sono i casi di efferata crudeltà che possono più o meno organizzarsi da un punto di vista sociale, politico o, diciamo così, culturale. Mm. Alludo appunto alla mafia o alludo alle tante storie di concentrazionarie che purtroppo hanno sempre attraversato la storia. Rispetto alle lettere che sono state trovate di Himmler, il primo pensiero ovviamente non può che andare al noto fatto che pare che Hitler avesse pianto copiosamente la morte del suo canarino, ovvero questo incredibile accostamento di sadismo e capacità di disumanizzare e agire in modo psicopatico e annientante nei confronti del prossimo e provare sentimenti di tenerezza, di affetto, di legame profondo per i propri cari o per le cose e gli animaletti amati. Dunque, qual è il punto? Proprio attorno al processo di Norimberga, ma poi c'è una sterminata letteratura, cito semplicemente La banalità del male o Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt, piuttosto che l'intervista di Gitta Sereni a Franz Stangl, che era il comandante dei campi di Treblinka e Sobibor, in quelle tenebre, piuttosto che Browning, Uomini comuni, o i taccuini di Norimberga di Goldenson. Molti si sono domandati, da un punto di vista anche scientifico, c'è anche tutta una produzione testistica di test di Rorschach, di Scale Weiss, che sono state raccolte come documenti storici proprio nel corso dei processi ai grandi nazisti, se esiste una mente nazista dal punto di vista storico, oppure se la possibilità umana di compiere atti così al di là del pensabile in realtà possa riguardare chiunque. Su questo punto la risposta, diciamo, più vicina a una riflessione attendibile sul piano scientifico e psicologico fino a un certo punto ce la può dare sicuramente l'esperimento di Zimbardo, il famoso effetto Lucifero. Zimbardo racconti, sì. È uno psicologo che negli anni 60 e negli anni 70, preceduto dagli esperimenti di Stanley Milgram a Stanford, divise semplicemente, creò una situazione, diciamo così, sperimentale, concentrata, dividendo i soggetti dell'esperimento in carcerieri e in prigionieri, e vide che in determinate condizioni si può sviluppare un livello di sopraffazione, di efferatezza, di crudeltà e di annichilimento dell'alterità umana, diciamo, impensabile per il nostro buon senso. Del resto, le esperienze più vicine a noi di Abu Ghraib o di Guantanamo ci raccontano episodi analoghi. Quindi è possibile che, faccio un po' fatica a dire chiunque di noi, però diciamo un umano medio messo in condizioni estreme può anche manifestare stare comportamenti separatezza. Gravi di sopraffazione. Però lei dice messo in condizioni estreme, qui invece c'è una quotidianità, c'è una routine. Esatto, e credo anche che nonostante le condizioni estreme sia molto diverso, diciamo, l'espressione individuale e psicopatica dall'organizzazione sociale e disciplinata di una sopraffazione, diciamo, matematicamente organizzata, come è il nazismo o come è stato in tutte le situazioni di campi di prigionia o di concentramento. Certo. Ecco, in quei casi, secondo me, sopraggiunge un meccanismo che è un meccanismo che seleziona in parte i suoi protagonisti, ma poi li fa agire attraverso sostanzialmente un processo che è un processo anche indotto da una propaganda e da una disciplina, che è sostanzialmente la deumanizzazione dell'altro, cioè a poco, questo peraltro lo racconta in modo impeccabile Primo Levi, a poco il prigioniero, l'altro, non è più umano, è un animale, è un insetto, è una cosa. E quindi si quindi può a schiacciare. Quel punto, diciamo, il protagonista del male produce il suo male banale, ma su qualche cosa che evidentemente con un meccanismo profondamente dissociativo dal punto di vista psicologico non vede più come un altro uguale a sé, ma vede come un gatto randagio, un pezzo di legno, una formica che si può schiacciare. Una cosa, una macchina. Le chiedo però un ultimo commento. Parliamo appunto del Totorina che scioglie i bambini degli altri nell'acido solforico e poi prega per la nipotina, ma per dirla in breve, se la raccontano su oppure c'è davvero una dissociazione emotiva per cui i due atteggiamenti sono possibili? Allora, io credo che sicuramente ci sia quella dissociazione emotiva che consente di vivere i propri affetti stretti con le persone scelte e consanguinee o della famiglia, per usare il linguaggio mafioso, con una parte di sé, e poi appunto deumanizzare le proprie vittime fino appunto a non provare delle emozioni di fronte alla perpetrare delle violenze o lo sterminio su degli individui o dei gruppi. Cioè, quindi c'è una convinzione, non c'è un disagio con un mentirsi, no? C'è proprio credo che da questo punto di vista le caratteristiche psicologiche della personalità psicopatica, che tra l'altro sono personalità, diciamo, a un livello elevatissimo maligno di narcisismo, cioè l'incapacità di provare empatia, la freddezza emotiva, il mettere i propri bisogni, anteporli a quelli di qualunque altro, facilitano sicuramente questo splitting psicologico, per cui dissociativamente si funziona a due livelli. Ma va detta una cosa che secondo me è importante: in modi diversi il mafioso, il nazista sono aiutati, diciamo così, da una convinzione culturale, cioè lì c'è un'ideologia, diciamo così, che non solo riduce l'impatto emotivo del gesto orribile che si compie, ma paradossalmente convince il soggetto che compiere quell'orrore, che non è vissuto come orrore, è un modo di ripulire l'ambiente sociale, la storia, e quindi non sente il rimorso e la colpa, appunto cosa tipicamente dello psicopatico, la mancanza del senso di colpa, ma crede addirittura di compiere un'azione generosa e buona per la storia, per la patria, per i valori. Una cosa giusta, insomma. Grazie Vittorio Lingiardi, grazie, e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Ci lasciamo con un argomento interessante ma tremendo, e comunque buona settimana a tutti, ci ritroviamo qui fra 7 giorni.